Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione sale nuovamente su un altro convoglio e riparte, apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso, ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento, intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri, a volte legge, spesso telefona. Riceve messaggi al suo computer e sembra che il tempo non abbia per lui valore. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato, ad aspettarlo, ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna, dalle nostre fonti, non è stato specificato. In ogni caso continuate a seguirlo, mentre il treno va. Il treno va. Perché c'è sempre una donna che aspetta dove terminano i binari. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti. Vorrei iniziare a raccontare anche oggi il mio viaggio in treno. Mi risulta difficile, sono immerso nel buio. Il treno si è fermato in una galleria, spesso accade. Sono treni blindati, chiusi, sigillati. Non c'è paura di soffocare, non c'è odore di fumo, non c'è null'altro che il buio. Non funzionano nemmeno le luci d'emergenza. Sono tutti zitti, nessuno telefona perché naturalmente in galleria non c'è rete. Cosa si fa quando il treno è al buio? Niente, si sta seduti, si ascolta una musica lontana che naturalmente viene da chi? Immagino dalla ragazza con la chitarra. L'avevo vista entrare, salire, non feci in tempo a salutarla. Ella sedette accanto a me e cominciò a suonare. Mi fai compagnia, ragazza con la chitarra, mi fai compagnia in un momento buio, buio nella mia triste esistenza, buio nel mio incedere lungo la ferrovia. Cosa suoni, ragazza con la chitarra? Oggi sei sola? L'hai mollato, ragazzo? Sì, con la l'ho mollato. Ma ci ha provato? L'ho mollato io. Ma ci ha provato? T'ha portato qua a casa? È successo qualcosa, sì. T'ha invitato a casa sua? Sì, sì. A cena? Aspetta, che però l'aveva detto, aveva messo le mani avanti, aveva ammesso. Sì, sì, no, infatti eravamo tutti e due d'accordo, è stata una cosa consensuale. Avete consumato un atto profondo? Ci fu intima d'azione? Un atto profondo, no. Superficiale? Beh, visto com'è finita, può darsi. Superficiale per sua impossibilità fisiologica a compierlo profondo o perché cercavi l'amore? No, non cercavo l'amore. Ormai, dopo tutti questi mesi sul treno, prendo quello che arriva. Beh, ragazzo, la chitarra te l'ho presentato io. Devo io questo incontro. Beh, non riesco a vedere il tuo rossore, quindi parli con spregiudicatezza di questa cosa. Sì, sono molto spregiudicata. Questa volta diciamo che... Ha sofferto lui? No, forse portandola più avanti magari avremmo sofferto, però insomma siamo conosciuti. Prima che sbocciasse l'amore, l'hai congelato lì, sull'atto carnale, come fosse una fettina che metti in freezer e la tiene per altri tempi. Sì, poi ci siamo lasciati perché lui comunque è tornato, ha preso il treno e è tornato a Bari. Ma vi siete mai messi insieme? Qui. Messi insieme no, fidanzati no. Ci siamo frequentati finché lui è rimasto Quante qui volte a Roma siete e poi è tornato giù a Bari. Quante volte siete usciti? Siamo usciti 3 volte. Ti ricordi, lui diceva: guarda che dalla seconda volta comincio a capirlo se uno ti piace o no. E ho detto, quindi non ero molto d'accordo. Ho detto no, ma ti pare... Sei concessa la terza volta in mi poi? Mi sono concessa la terza volta, c'è stata una quarta, poi... Non sempre bisogna andare avanti, no? Magari quelle quindi 4 volte... Quindi praticamente 2 volte avete giaciuto e basta. Già abbiamo giaciuto. Sì, 2 volte. Sì, abbiamo giaciuto 2 volte. 2 volte su 5 uscite. 3 uscite a vuoto e 2 a pieno. Beh, buono, non è una bella media. Ma per lui, poveraccio, ha faticato tanto per... Ma portare a casa così poco. Ma chi ha portato a casa così poco? È stato qui una settimana e mezza, poi è tornato a Bari e... Com'era casa sua? Pulita? Sì. Molto ma carina. Ti ha invitato a cena a casa sua o fuori? Però c'è questa idea. Mi ha invitato fuori e poi siamo andati a casa sua. Ma come avviene il momento fatidico in cui uno chiede il conto e poi si è preso il caffè, l'ammazza caffè, si è chiacchierato, si è pagato il conto e cosa si dice? Beh, adesso che facciamo? Com'è? No, già vi affacciate... c'è quel sorriso sulla... ammiccante. Lo vedi, dai, quello sguardo, per dire... magari uno non si guarda bene negli occhi, però si capisce, cioè quello sguardo, si sfiora la mano. Sì, quei gesti, insomma, che si cercano scuse per starsi vicino. Sì, magari, esatto, magari già durante la cena vi ha avvicinato la sedia, insomma... L'hai sfiorato? Senso, se c'era ovviamente la possibilità, poi un esatto parla, si sfiora con le mani. Insomma. Ah, l'ho sfiorato? Sì, non è che sì, l'ho sfiorato, non è che poi. E come avete detto, andiamo a casa mia, lui ti ha detto. Ma quale scusa era? La collezione di stampe cinesi? Che ti ha detto? Che vieni a vedere cosa? No, perché allora ti spiego, è iniziato a piovere, io ero a piedi. E eravamo più vicino a casa sua che a casa mia. Beh, casa mia, come esistono pensai, esistono i taxi. Sì, però lui ha detto: vabbè, dai, vediamo se te ne troviamo uno. Poi non abbiamo chiamato nessun taxi. Finché ti asciughi, vieni a casa mia e poi ti faccio. Sì, dai, dai, vieni. Ma non è stato nemmeno così, proprio. È stato più che altro. Andiamo, andiamo, sta piovendo. Sì, sì, sì, e ci siamo rifugiati a casa sua. E tu eri tutta bagnata e sei dovuta cambiare. Sei dovuta cambiare, ti era piovuto addosso, eh? Piovuto tanto. E io ho detto: ti presto una maglietta, magari, delle mie. Una camicia. Ah, una camicia, beh, sì. Più romantica. Più romantica, sì, la camicia. Anche Maria Schneider in Ultimo Tango a Parigi mette la camicia in mano. Poi magari te la puoi lasciare addosso, te la porti a casa, vai a casa. Quindi tu sei, prende, sei riuscita fuori dal bagno coperta solo dalla sua camicia. E avevi steso i tuoi pannicelli dove? Alla finestra? No, in particolare. Non l'ho stesi. E te li hai portati in una bustina? No, non l'ho appoggiati là così. No, perché i panni bagnati, se li metti in una busta chiusa, un po' puzzano di marcia. Sì, è uno terribile. Schifo totale. Schifo. No, no, e poi no, ti ha quell'odore cattivo. Poi magari l'unica cosa che ti rimane di quella sera, vai a casa, apri col sacchetto puzzolento. Il sacchetto che e allora puzza, col phon, l'ho detto, ti asciugo col phon. No, dai Gianluca, no. E no, voglio sapere. Poi no, ho detto non, ma poi cioè, non è che uno parla in continuazione, arriva un punto che non parli più. Ma lui nel frattempo si era messo la sua veste di seta oppure era rimasto vestito normale? Di seta, ma si era messo la veste di no, seta. No, mentre tu eri in bagno mettevi la sua camicia. I vestiti bagnati e usciti. E lui com'era vestito? Lui com'era vestito? Lui com'era entrato dentro casa, non è che nel frattempo le scarpe se le era tolte? Quindi c'ha con le scarpe ai piedi. Con le scarpe, ma ho capito, non è che sono stata in bagno 40 minuti. Sì, beh, in casa il tempo che lui mi ha dato la camicia, è andato, stava a casa, avrà fatto non lo so che cosa e sono uscito dopo 5 minuti dal bagno. Magari avrà spento il telefono. E lui cosa so. Ha fatto dopo essere uscito dal bagno? Vabbè, poi. Quindi non si è manco andato a lavare le mani, fare un po' di igiene intima, nulla. Ah, no. Eh no, non è rientrato lui in bagno. Non pensare a cose che adesso. Beh, non mi ha detto è rientrato in bagno pensato, dopo di me. Adesso ci devo pensare. Sì. Pioveva così tanto che non c'era bisogno. Ah, sarà lavato con la pioggia. Ci siamo lavati con la pioggia. E allora, quindi è andata bene. Sì, sì, sì. Ma poi guarda, ho capito una cosa. Dopo tutte. Allora. Io ovviamente non sono stata l'unica a incontrarti. Magari l'unica con la chitarra, sì. Però ho capito alla fine che ma che ti frega? Se una persona ti piace, no? Ma certo, mica si consuma, lo diceva anche mia nonna. No, ma poi magari ti rimane, poi magari lo ingigantisci non vivendola. L'equivalente, di una, l'equivalente di una pelle di cipolla ogni 100 uomini. È diciamo la misura della consumazione fisica dell'apparato femminile. Non ogni 100 uomini è come dire. Una pelle di cipolla, hai visto? È un velettino piccolo piccolo. Quindi ha voglia, prima ne passa una cipolla intera, ne passano 10.000. Quindi non c'è problema. Non è che il ragazzo la chitarra t'avrà meno amato. No, infatti. Ti ha mandato sms poi su WhatsApp. Guarda, è bello quando faccine. Poi faccine li odio, non so. E che ti ha mandato? No, sono carine le faccine, però. Beh, c'è un sacco di cose, c'è anche la melanzana. C'è anche la frutta, c'è anche gli abbracci, stanno tante cose, i fulmini, l'ospedale, tante cose. Vabbè, senti, rischiare del chiarore della tua musica questa buia galleria dopo questa tua confidenza che ti ho colto soltanto perché non riesco a vederti in faccia e non colgo i segni del tuo pudibondo rossore. Il treno va. Se mai dovessi fare qualche bilancio, ma bilanci non se ne fanno, io spero che questo treno camminerà per sempre. Camminerà anche quando io non avrò più facoltà di vedere ciò che scorre oltre il finestrino. Piacerebbe incamminarmi su un treno che non si ferma più. Sarebbe una sorta di illusione di eternità. Beh, mi piacerebbe che potessi rivedere sempre, come in un film, come il personaggio cazzone di La città delle donne di Fellini, tra tutte le donne che lo aveva incontrato, con una sorta di galleria parlante, dei ritratti che stanno lì, come una sorta di memento mori, perché in fondo ogni passione, ogni amore, ogni conoscenza, ogni incontro, alla fine deve morire, perché se non muore non entra nel ricordo. E tra le tante donne che si sono sedute accanto a me, di fronte a me, nello scompartimento, nel vagone ristorante, di fronte all'attesa incessante davanti alla toilette, quando c'è la vecchia dentro non esce mai, e quando esce meglio non entrare perché chissà che è successo, c'è la trentenne tipo, la ragazza che oggi non trova l'uomo. Ma perché non trova l'uomo? Non trova l'uomo perché gli uomini ormai non perdono più tempo con le trentenni perché hanno le quindicenni, non perdono più tempo con le trentenni perché hanno le quarantenni, sono molto meglio piazzate, e quindi finché si trova in questa sorta di generazione liminare intermedia dell'eterna insoddisfazione, non può altro collezionare delle impossibili storie d'amore che mai si compiranno. Ma hai risolto alcuni dei tuoi problemi? No, guarda, anzi, ho incontrato uno dei miei ex storici proprio. Quanto tempo c'eri stata? 5 anni. Infatti ti vedo un po' corrucciata. Dopo quanto tempo l'hai incontrato? No, mi sono fatta delle grassissime risate. Sì? Sì, sì. A rivederlo un ex amore? Ma lui che ti ha detto? Mi ha salutato, mi ha chiesto come stavo. Hai tentato la ripresina? No. Beh, fuori. Storie finite, sono finite. Beh, questo aspetto a dirlo. E quindi cosa vi siete detti? Ah, gli ho chiesto come stava, l'ho visto un po' cambiato. In che senso? E nel senso, sembra che faccia un'altra vita adesso, si è lasciato andare un attimino alla sua anima new age, diciamo così. E cioè che ha fa? Iniziato un corso di shiatsu e massaggi, va cioè yoga. Li subisce o li fa? Secondo me entrambe le cose, perché ho ricollegato a quello che succedeva nell'ultimo periodo. Che succedeva? E anche subito dopo appena lasciati, per caso così, ho imparato da lui, perché purtroppo non si teneva un cezzo in bocca, che si stava frequentando con, frequentando diciamo in senso amichevole, non nulla di più, con un altro ragazzo che appunto faceva massaggi shiatsu e avevano intenzione di iniziare insieme questa scuola. Ah beh, che c'è di strano. Quindi hanno iniziato la scuola e poi hanno iniziato anche a fare pratica. L'uno sull'altro? L'uno sull'altro. Cioè tu adesso vuoi insinuare una deriva gay del tuo ex? Beh, questa io non l'ho mai indagato oltre, è la tipica però vendetta crudele di una donna. Una donna. Mi ha lasciato perché però gay, ma non è così, dai. Però non lo so, perché io l'ultimo periodo, una volta che gli ho telefonato, io vivevo già lontano, l'ho sentito con la voce molto strana, molto leggera, fluttuante. Ma uno può avere la voce leggera ad essere gay per forza. E gli ho chiesto cosa faceva, mi ha detto che era tornato dalla sauna col suo amico. Vabbè, che vuol dire? Sai com'è, se poi dopo, a storia finita, impari che l'amico era anche gay, un pochino di dubbio. L'amico era gay? L'amico era gay, l'ho imparato. Vabbè, uno non può frequentare un amico gay ed essere gay per forza. Certo, avevamo amici gay. E allora? Ma non era tra quelli. E non capisco perché non dirmelo prima, altrimenti. Vabbè, ma uno esce con un amico, non è come dire un amico che però, che ne so, è appassionato di musica classica. Che importa le abitudini sessuali? Certo, infatti. Cioè lui va nelle saune col suo amico e fanno shiatsu assieme, che c'è di male? Nulla, però qualche sospetto ti viene. Se... Scusa, ma te durante la vostra lunga relazione, 3 anni, quanto è durata? 5 anni e non ti eri mai accorta se ci fosse stato nulla, qualche segnale? Nulla, tranne l'ultimo periodo. Forse ha avuto una rivelazione, dai. Vabbè, questa è solo crudeltà, è una tua vendetta. È una tua vendetta. Diciamo che me ne sono fatta una ragione così, allora. Mettiamole così. Ma per te sarebbe meglio pensare che ti ha lasciato per un'altra donna o per un altro uomo? Adesso guarda, io mi ritengo fortunata che mi abbia lasciato. Anzi, vabbè, che ci siamo lasciati. Quindi, in qualsiasi... Che ti cambia. Esatto, in qualsiasi caso non mi cambia nulla. Anzi, ti avesse lasciato per un uomo dovrebbe lusingarti, vuol dire che dal che punto è rimasto di vista... così deluso da me. Ma no, deluso. No, non c'è una tua rivale, era lui che aveva, diciamo, che aveva altre... un'anima nascosta che ha finalmente rivelato e quindi tranquillo. Sarà così. Certo, nessun sintomo. Nessun sintomo. Non lo so, ti diceva qualche volta che ne so... Mettiti una cravatta. No. Me la mettevo, sai, a volte, perché vedi, mi piaceva. Vedi, però c'era dei segnali. Ti faceva vestire da uomo? No, io mi mettevo da uomo la cravatta ogni tanto perché era un oggetto che mi piaceva. E lui era contento? Sì. Sì. E mettevi mai i suoi vestiti, lui tuoi? No, era troppo più per alto. Per scherzo lui non si è mai messo i tuoi vestiti? I tacchi no, non l'ho mai visto quei tacchi in casa. E quindi non c'era. Anche segnale. Perché avevamo un numero un po'. Quindi è grande lui come persona? È grande, sì, sì. E adesso fa massaggi shiatsu nella sauna con l'amico. Con l'amico. Si informano i signori passeggeri che fra qualche minuto passerà in carrozza il personale del treno per offrirvi un piccolo spuntino. Kate, quando te l'ha detto, com'era contento? Fisicamente com'era cambiato? Detto, è cambiato. Cambiato, no, il vestito, si vestiva diversamente. Sì, era un po' più new age come, come abbigliamento. Cioè? Un po' più colli alla coreana. Ah, camicia, quello è sospetto. Sì, anche quella. Colletto alla coreana, diciamo, è già una scelta. Un indicatore. Di campo. Poi? E niente, dai, aveva questi abiti un po' davvero new age. Cioè, ma come? Descrimili. Questi colori molto tenui, molto... Rosa confetto, pastello. Più sul bianco beige, diciamo. Tortora, color tortora. Sì. Vabbè, ma era normale, dai. Su quello tessuti normale. Naturali. Esatto. Lui d'altronde faceva questa scelta naturistica, quindi giusto. E quindi... E poi altro, a parte questa cosa, questa vigliaccata che hai fatto, di questa coltellata alle spalle, questo povero uomo ex, che non ha nessuna colpa, capito? E adesso cos'altro pensi di fare? Cioè, hai avuto altre novità? Niente. No, altre novità grosse no, non ne ho avute. Ho una novità, ti racconto di una novità di mia sorella. Ah beh, tanto, sempre in famiglia. Ha conosciuto un ragazzo. È sposata lei? No. Fidanzata però? No. C'ha una storia? No. Vive sola? Ha conosciuto un ragazzo in chat. Ma lei dove sta? Che faceva prima? Sentimentalmente com'era legata? Nessuno? Nessuno. Quindi se due sorelle, praticamente due patate bollenti ancora. Esatto, che nessuno ci vuole, nessuno alla vuole. Mano Ha e conosciuto quindi? Un ragazzo in chat, bellissimo, carinissimo, molto elegante nei modi, però non le voleva mandare foto, tranne quella della chat. Beh, sospetta questa cosa. Molto sospetta. È un uomo bruttissimo, vecchio, sdentato. Lei cosa era molto bello nella foto della Beh, foto, ma ci vuole trovare una foto di una persona bella. Photoshop insegna. E in effetti un giorno l'ha incontrato. E com'era? Era osceno. Osceno, in che senso? Osceno. Mi ha detto solo che ha fatto la battuta, insomma, dicendomi che ciascuno ha la sua angolazione per venire bene in foto. Lui poteva venire bene solo di spalle al buio, quindi... E quindi l'ha visto così brutto che ha fatto? Non era comunque innamorata dei suoi modi di fare? Dice come la bella dice la bestia. Dice che questo qua ci ha provato e anche lei è stata una fuga continua tutto il giorno. Cioè, con lui che si avvicinava e lei che si ritraeva. Puzzava pure magari, schifoso. No, così no. Però insomma, diciamo che lui era andato con intenzioni anche non solo conoscere. Beh, grazie, dopo una che la conosci via chat, ci parli, ci incontriamo, è chiaro che l'incontro è finalizzato all'intima d'azione. A qualcosa subito. E se no che ti incontra a fare? Insomma, giustamente. Non prendete in giro. E lei come ha fatto a liberarsi? Niente, ha cercato una chiacchierata piacevole, poi dopo ciao ciao e non l'ha mai più rivista. Forse dovreste fare delle azioni congiunte come sorelle, vi consiglierei di fare una specie di associazione. Pellegrinaggio a Lourdes. No, ma no, ma insieme, muovetevi in coppia, forse magari riuscite meglio, perché unite le forze, così separate è difficile, non lo so. Boh, certo, cari ragazzi, vi vedo un po' messe male. Eh sì. Vabbè, in bocca al lupo. Grazie. Spero che la prossima volta che ci incontriamo avrai qualcosa da dire. Avrò dirmi. Una bella novità. Speriamo veramente, perché non oso descriverti, ma sei al di sopra di ogni attesa, quindi non capisco perché. Ma come mai gli uomini si spaventano? Ho una teoria cattiva. Dimmela. Gli uomini non vogliono confrontarsi. Vabbè, ma la maggior parte degli uomini e delle donne alla fine trovano qualcuno. Sì, è vero. Con te è un confronto così difficile, secondo te? Avrò un caratteraccio? Ma dai, carattere. Non lo so, è che probabilmente ti si legge in faccia: cerco l'uomo per la vita e la gente scappa. Può essere anche questo. Qualcuno me l'ha detto. Questo è un deterrente. Una persona molto cara me l'ha detto. È un deterrente, capito? Uno vuole essere leggero, almeno all'inizio. Tu ma c'hai all'inizio anche io sono mica voglio sposarmi. Vabbè, ma tu cerchi un uomo che ti ami, che ti stia vicino, che prenda responsabilità. Mica sono cose così. Magari altre danno l'aria più leggera, dicono ma sì, vengo con te, magari pensa un altro, l'uomo allora si arrabbia. Tu sei pronta a dare tutto, però in cambio vuoi tutto. E gli uomini ci hanno paura. Però poi restano fregati dalle altre. Lo so, però sai, è la ruota che gira. Sono brave a ingannare, gli uomini amano l'inganno. L'uomo si tuffa pesce in ogni inganno. Ecco, io sono arrivato, ti saluto. Ciao, ciao, buona ciao, giornata. Ciao. In our wings that bark, flashing teeth of brass, standing tall in the dark. Oh, and we were gone, hanging out with your dwarf man. We were so turned on by your lack of conclusions.

marcia nella sera. Questo treno va. Sembra una pantera. Non si ferma.